Disco Dallas Santa Ana. Hey boy. Sí, señor. Porta mi plata. Subito, señor. Maledizione. Si sono rotti i platter. Ed ora che si fa? La vita senza platter. Che mai diventerà? Ma ditemi chi è stato quel disgraziato. Ma guarda un po' che guaio ha combinato. Pur l'amore mio m'ha detto addio, se n'è fuggita lontano e mai più tornerà. Si sono rotti i platter. Oh, che fatalità. A chi m'ha rotto i platter me la pagherà. Sì, sì. A chi m'ha rotto i platter la pag rabab to dip lobo to dip to dip dip dip dip dip dip. Guarda un po' che guaio m'ha combinato. Pure l'amore mio m'ha detto addio, se ne fuggita lontano mai più tornerà. Si sono rotti i platters. Oh, che fatalità. Ma chi m'ha rotto i platters, baby, la pagherà. Ma chi m'ha rotto i platters, baby, la pagherà. Ok. Beh, allora, questo pezzo assolutamente apre il nostro disco della settimana e a me fa già un pochino ridere. Questo disco della settimana più che mai ci sarà necessario perché siamo tutti in quarantena. Io se do un colpo di tosse mi chiudono in uno stazione, non mi fanno più uscire. Abbiamo bisogno quindi di buona musica che ci tiri sul morale. Quindi cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto un album appena uscito e tra l'altro non so se avete ascoltato bene la canzone. Questo brano si chiamava Si sono rotti i platters. Mi ricorda un po' il tuo umorismo, eh? Evviva! La voce mi ricordava un pochino, appena appena, quella di un indimenticabile cantautore italiano di un bel po' di tempo fa. Fred Buscaglione. Ah, no? Vagamente gli assomigliava, forse perché era Fred Buscaglione. Fred Buscaglione non è uscito con un nuovo album, ahimè, perché è scomparso ormai 60 anni fa, ma è uscito un cofanetto a lui dedicato. Esatto, a tutti piace Fred e a qualcuno piace caldo. Lo sapevo. Vabbè, io mi saltava fuori questo. A tutti piace Fred è il nome di questa raccolta che è stata fatta per celebrare appunto la carriera in particolare di questo grandissimo artista che è Fred Buscaglione. A 60 anni appunto dalla sua scomparsa, la Warner Music ha detto: sai cosa, facciamo una bella raccoltona in 5 dischi e la facciamo uscire il 21 febbraio 2020, quindi pochi giorni fa. Esatto, esattamente a 60 anni dalla scomparsa di Fred. Questi 5 CD contengono i primi 3 i grandi successi di Fred Buscaglione, come Si sono rotti i platters che avete ascoltato poco fa. Il 4° CD contiene invece un album speciale con la voce narrante di Leo Chiosso, che è un amico e anche paroliere di Fred Buscaglione. Mentre il 5° album, che è quello che esploreremo forse un pochino di più, è quello dove ci sono cover fatte da altri musicisti italiani, cover di pezzi di Fred Buscaglione fatti da diverse voci che scoprirete con noi assolutamente. A questo punto io partirei direttamente solamente con una cover così per lanciarci nell'aria e poi continuare a parlare di questo disco. E io partirei con una cover di un personaggio che è sulla bocca di tutti in questi ultimi giorni, in queste settimane, forse anche un po' troppo, però... Però per dimenticarci i gossip e invece concentrarci sulle sue abilità canore, ascoltiamo il pezzo numero 6 del CD5, quindi quello che contiene tutte le cover, e ascoltiamo Eri piccola. Piccola. Piccola. Così. Però cantata da Bugo, che è molto più bravo di noi. Dov'è Bugo? 1, 2, 3. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, piccola, piccola, così. Mi hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. Mi hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto e ti ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì, così. Viziata, coccolata, latte, burro e marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. E cretino sono stato, anche il gatto mi hai venduto. Ma eri piccola, già piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno mi hai piantato per un tipo spappolato. T'ho cercato, l'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, ti ho mai detto disgraziato. La pistola mi hai puntato e in un colpo mi hai sparato. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così. Così. Quindi ricominciamo a parlare di A tutti piace Fred. Ricordiamo che questa raccolta della Warner Music, che è uscita il 21 febbraio e che raccoglie appunto un omaggio alla carriera di Fred Buscaglione. I primi 3 CD, dicevamo, contengono i suoi successi più grandi, con un audio però rimasterizzato, e ad esempio contengono Guarda che luna, Che bambola, Love in Portofino, Buonasera signorina, Whisky facile, Teresa non sparare, che è bellissima, Il dritto di Chicago, Noi due e Eri piccola così, che c'è nella versione di Bugo che abbiamo appena ascoltato e nella versione originale rimasterizzata di Fred Buscaglione. Poi dicevamo che però il quarto album, che è un album pubblicato postumo da Cetra, si chiama Lo ricorderemo così, ed è un album dove la voce narrante di Leo Chiosso, con un audio rimasterizzato, racconta appunto Fred. Perché? Perché questo paroliere piemontese aveva proprio conosciuto Fred Buscaglione e l'aveva conosciuto sentendolo suonare in un locale, e bam, erano diventati subito amici, è nata la scintilla tra loro due. Sì, a separarli sarà temporaneamente la guerra, perché Chiosso viene deportato in Polonia, mentre Buscaglione internato in Sardegna, prigioniero degli americani. I due si ritrovano successivamente, dopo la guerra, quindi a scrivere canzoni in una Torino sospesa tra gli strascichi della crisi postbellica e l'affacciarsi della nuova società dei consumi, la Torino in cui nascono le prime Piole e il Barbera, che comincia a scorrere a fiumi. la città che farà da cornice a un duraturo legame lavorativo e affettivo. Infatti i due lavoreranno molto insieme. Esatto, e quindi in questo quarto album la voce di Leo Chiosso ci racconta proprio questo legame, ci racconta dal suo punto di vista chi era Fred Buscaglione, quindi è molto interessante, non è solamente una questione musicale ma anche una questione affettiva. Noi per ragioni radiofoniche non vi faremo ascoltare la voce narrante di Leo Chiosso, ma la potete insomma andare a scoprire in questo cofanetto. Allora io ti direi che se ti va ti farei ascoltare una delle canzoni di Fred Buscaglione che a me piace di più, che è contenuta nel CD1 in questo caso ed è la seconda traccia e si chiama Teresa non sparare, sei d'accordo? Sono d'accordissimo. La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così. Teresa! Ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa, giù. Follia, l'ho incontrata per la via, disse vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, far così non è gentile ma lascia andare. Teresa, no! Non mi sparare, Teresa, l'aria verde! Ah, no! Teresa, io ti prego, non sparare! Rientriamo quindi dall'ascolto di Teresa non sparare, che secondo me è un pezzo bellissimo di Fred Buscaglione, per continuare a scoprire A tutti piace Fred. Ricordiamo che A tutti piace Fred è una raccolta che è uscita il 21 febbraio di ben 5 album, ma in particolare a questo punto io parlerei del quinto disco, che è quello che chiude il cofanetto. Esatto, è un quinto disco che contiene le cover degli special guest, diciamo, insomma, artisti storici del panorama musicale italiano e alcuni dei nomi più ascoltati della scena indipendente, come Bugo, che avete ascoltato poco fa. Nella tracklist sono presenti ad esempio Mina, che canta Che bambola, che giustamente la canta Mina, mi sembra giusto. Bruno Risas nel Cielo dei Bars, lo Stato Sociale in Teresa non sparare, che abbiamo appena ascoltato ma riascolteremo se volete con lo Stato Sociale, Dente in Guarda che luna, Bugo appunto in Eri piccola così, Ornella Venoni in Una sigaretta featuring Jill Evans e Ron Carter, Paolo Benvenu in Love in Portofino, Gli Statuto con noi duri, Paolo Belli in Whisky facile, Luis Prima in Buonasera signorina, Rino Gaetano in Il dritto di Chicago live, Naim in Porfirio Villarosa. I tributi che sono stati fatti da Dente, da Brunori, dallo Stato Sociale, da Paolo Benvenu e da Bugo sono stati tratti da una compilation, che è quella che nel 2015 è uscita con il titolo Sotto il cielo di Fred, che era curata da Libellula Music e dall'associazione FEA per Sotto il cielo di Fred, appunto. Questo è, per chi non lo conoscesse, un festival di musica che è un contenitore sostanzialmente del premio Buscaglione. Tra l'altro, che ha premiato artisti emergenti come Eugenio in Via di Gioia, la Municipal, lo Stato Sociale e tanti tanti altri. Il premio Buscaglione è un concorso musicale per artisti emergenti che ormai è la sua sesta edizione, ma soprattutto dal 2010 Sotto il cielo di Fred ha anche lanciato un'altra cosa che si chiama La Notte Rossa Barbera. È una maratona musicale che è nata a Torino, che io amo particolarmente, appunto ero lì quando sono nate tutte queste manifestazioni, e che ora più o meno comprende 30 osterie nel Piemonte, dove degustare i prodotti locali bevendo Barbera e ascoltando le esibizioni dei partecipanti al premio. Insomma, una roba molto fica. Esatto, è una sorta di sagra diffusa che ha l'obiettivo di valorizzare il territorio ma anche l'arte dei giovani talenti. Quindi tu ti prendi una seratina, vai in una, non so se in una piola comunque o in un'osteria, ti prendi il tuo Barbera, ti metti a sedere, ascolti un po' di buona musica, not bad, no? Assolutamente no. Chiudiamo quindi la presentazione del disco della settimana con un'altra cover. Dicevamo appunto che il quinto disco contiene le cover e noi vi diamo la cover di un altro personaggio che ahimè non se ne esce più con dei nuovi dischi, perché anche lui purtroppo ci ha lasciati. La traccia numero 3 del quinto CD è un live di Rino Gaetano che canta Il dritto di Chicago di Fred Buscaglione. Allora, con questa canzone noi chiudiamo il disco della settimana di appunto questa settimana. Vi ricordiamo che tutte le canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare sono tratte da A tutti piace Fred, che è una raccolta uscita il 21 febbraio di ben 5 dischi, quindi questa settimana potete ascoltarvi ben 5 dischi, non uno. Quindi vi lasciamo tutto il tempo di ascoltarli, speriamo che questa scelta vi sia piaciuta e ci sentiamo la settimana prossima con un altro disco della settimana. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean, diplomato rapinologo a Sin Sin. C'ho una moto che è una bomba, scasso, schiaccio e parto in tromba, va super rinforzata, whisky e gin. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean, mischio pop e disco music con lo swing. Poi di bambole piacciose me ne faccio un'overdose nello spazio limitato di un mattino. Ragazzi, mamma mia che strano, quando per Chicago scendo a passeggiare. Ragazzi, bravi sorridete, se lo disturbate certo sparerà. Sono il dritto di Chicago, Sugar Bean, centroavanti della squadra di Sing Sing. Quando punto una bonona, quella tutta si abbandona, perché Sugar tiene un fascino latino. Quando il duro Super California Joe, che fa la cintura nera nel judo, mi palpò la marilina, sradicai una panchina e i denti uno a uno lui sputò. Quando Hollywood per caso transitai, di Faye Dunaway nel letto non entrai. Woody Allen ho affittato, di battute mi ha intronato e il suo conto in petrodollari pagai. Favola Sing Sing, quindi tutti salutati, i sorrisi smerigliati, sono il dritto di Chicago, Sugar Bean. Sono il dritto di Chicago, oh yeah. Sugar.